cartellone di Elisabetta Fiorito. Tu ci piace di chiacchierare. Pronto? Sabrina Perilli, che bello sentirti. Ma va, davvero? Giura? No, perché ultimamente con tutte queste telefonate la gente si è un po' rotta, che mi mandano tutti a fare. No, no, no, non vedevamo l'ora di sentirti invece. Ma va, davvero? Giura? O sai perché io sono una tipa solare, so socievole, so semplice, si vede la curva. Brava, brava. Grazie, pensa, mi piace talmente tanto che io salgo sull'autobus, mi faccio a mano morta da sola, riscendo dall'autobus, mi rivolto, mi fischio da sola, mi grido, quanto sei buona! Brava, così bisogna fare, volersi bene. Grazie per l'insegnamento, adesso devo andare avanti con la convention, ciao! E come grazie? Scusa, ma io sto già chiamando... E quella che sentite, buongiorno, che ci dà proprio il buongiorno in questa puntata di Cartellone, non è ovviamente Sabrina Ferilli, ma Francesca Reggiani, che è in scena questa sera, debuttato ieri al Teatro Pietro Aretino ad Arezzo, ed è in scena ancora questa sera per poi andare la prossima settimana dal 10 novembre fino al 29 alla Sala Umberto di Roma con un nuovo spettacolo, Tutto quello che le donne non dicono. Buongiorno Francesca. Salve, buongiorno a tutti, salve. Insomma, che cosa non dicono le donne? Perché io leggo sulla locandina del tuo spettacolo che le donne adesso sono disposte a fare tutto, a cambiare religione, a imparare mantra nepalese. Insomma, brava. di tutto allora, per trovare, guarda, un uomo. Allora, sì, beh, innanzitutto si parte dal presupposto che siamo una, come posso dire, una generazione di single, una generazione di soli, di scoppiati di rientro, di single di rientro, quindi in questo poi, ovviamente affrontando in maniera ironica, è ovvio, come posso fare io, il tema delle pari opportunità, è evidente che una donna di mezza età quando si separa non ha le stesse chance di un 40, 50, 60, 70enne che si mettono appunto con una certa nonchalance con ragazze e ragazzine di 20 anni, cioè se un cinquantenne si mette, sessantenne si mette con una ventenne, gli fanno un plauso, no? E certo, Briatore che ha sposato la Gregoraci a 30 anni in più. Ma non solo Briatore, cioè io ho anche una quantità di amici che sono giovani cinquantenni che riescono a, così, a calappiare così, delle ventenni. Se una 40-45enne si mette con un ventenne ti prendono per malata, quindi questo è il, è una buttata, è uno dei tanti pezzi, tutto quello che le donne non dicono è un grande contenitore. Ecco, ma in questo nuovo contenitore tu hai preso un po' di mira un ministro di questo nuovo governo, Maria Stella Gelmini. Ma tra l'età sì, anche, ma vestita col taglierino, come appari quando la imiti? Appare improvvisamente perché lei stessa verrà a spiegare quelle che sono appunto le basi del decreto Gelmini che è stato così criticato, ci sono state manifestazioni, striscioni, lanci di oggetti contundenti, parolacce eccetera eccetera. Appaio molto gelminata. Molto gelminata. Assolutamente, sì. Poi appare un Vittorino Andreoli, appaiono vari personaggi, cioè son vari pezzi di stand-up, per me molto divertenti. Ma anche noi siamo pubblico, sicuri. Io ho fatto una prima, dunque ad Amelia, 4-5 giorni fa, e ieri ad Arezzo stesso, e quindi, poi sai, non è che me lo dico da sola, però poco che è funziona, ecco. Senti, ma uno dei tuoi spettacoli prendeva anche un po' di mira queste badanti russe che si vestivano coi tacchi. C'è anche questo? Sì. Esattamente. No, allora diciamo che ci sono due o tre pezzi di repertorio, perché come diceva Proietti, anche altra gente, un attore ce l'ha fatta quando ha il repertorio. Quindi io sono felice di questo, ho 3-4 pezzi di repertorio e sono contentissima. Quel pezzo lì sulle russe, cioè la differenza fra una russa e una italiana, che il pubblico me lo richiede, sicché l'ho rimesso in scaletta. Quindi ci sono 2-3 pezzi vecchi e tutti gli altri nuovi. Allora, cioè, Vittorino Andreoli che è nuovo, la Loren è nuova, Patti Pravo anche torna e ognuno dice la sua. La Loren si meraviglia e fa un plauso a questo governo che è un governo ottimista, che ti fa sparire la mondezza nel giro di 48 ore, siccome ha risolto l'Abruzzo, eccetera. Patti Pravo interviene invece sul fatto, sai, di essere eternamente giovani, no? Questo fatto, quindi chirurgie plastiche, eccetera. Ma lei ne sa qualcosa, E lei, poveretta, si risente perché c'ha l'età che non vorrebbe avere, per cui entra dentro e dice subito: scusatemi, non capisco bene ancora dove sono, perché mi hanno talmente tanto tirato gli occhi che non vedo un accidente. E quindi, poveretta, avanza pian piano. Sì, Francesca, c'è un personaggio che tu hai mai voluto fare e non sei mai riuscita a fare? Guarda, che sfiga, sì. Paola Perego, me la sono preparata tanto bene, la Perego, l'avevo proposta anche all'Aventura e a me piace moltissimo. Come contenitore, quelli che è il calcio, la trovo eccellente, e lei, la Simona, è una grandissima, cioè nel sostenere gli sketch è una veramente che lo sa fare, e non sono in tanti, Sicché mi ero preparata sta benedetta Perego, perché volevo così, non va più in onda la Perego. Mannaggia, però ce lo puoi fare a noi un pezzettino, se te lo ricordi? No, un pezzettino della Perego, vabbè, era sull'aggressività in televisione, decisamente era una che parlava adesso con una specie di gnagna, era un pochino così, io tengo molto all'abito, diceva i miei vestiti me li scelgo personalmente, taglia, colore, peso, se pesano più di un grammo li scarto oppure li metto in uno scatolone con su scritto abiti invernali. Ora, questa è la prima che mi è una battuta, ti pregherei di ridere. No, mi viene da ridere, perché poi immagino lei. Ci siamo capiti. Nell'arco della mia così vita professionale, poi alla fine dai, mi ricordo che io andai da Serena Dandini, ovviamente, con l'idea della Loren, sarà stato il 91-92, cioè il primo Avanzi, perché lei faceva Cattadeville, il famoso prosciutto, e non passò. Dagli, passano 10 anni, tacchete, io poi a Cocktail d'amore, non so per quale così circostanza che andava, comunque sull'attualità, rifeci la Loren e l'ho rifatta abbastanza uguale. Ricordiamo, questa sera ad Arezzo al Teatro Pietro Aretino abbiamo sentito Francesca Reggiani, un one man show, ma direi forse un one girl show, tutto al femminile e tutto quello che le donne non dicono. E poi dalla prossima settimana alla Sala Umberto di Roma, dal 10 novembre fino al 29. Grazie Francesca. Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata a tutti. Salve. Buona giornata. Gesù di Nazareth, come ti uccido di fretta? Avrei potuto essere da qualche altra parte, questa sera, in una casa che non ho. Mi avrebbe potuto aspettare una donna, che neppure ho. A Nazareth ogni sera prendevi il volo sulle colline e sui campi. Mentre tutti dormivano, uscivo piano piano dalla porta. Aprivo il braccio, prendevo lo slancio e via. Il mio corpo volava. E quello che sentite è il Vangelo secondo Pilato, in scena al Teatro Franco Parenti di Milano, ancora per questo weekend, poi dalla prossima settimana a Rovereto e Savona, il Vangelo secondo Pilato di Henrik Emanuel Schmidt, interpretato con la regia e l'interpretazione di uno dei più grandi attori di teatro italiano. Io sono un po' emozionata ad averlo qui a cartellone, perché da pischella, come si dice in gergo, andavo a teatro e vedevo questo mostro sacro. Buongiorno Claudio. Buongiorno, non mi faccio sentire imbarazzata a me. Buongiorno, la ringrazio. Allora, che cosa dice Pilato? Qual è la sua versione dei fatti? Guardi, la frase che c'è nel testo che può gettare luce sul nostro spettacolo è questa: dubitare e credere sono la stessa cosa, solo l'indifferenza è atea. Questo è un testo che, escludendo assolutamente la noia, è un testo che invita la gente ad interrogarsi. Non è un testo che pone dei dubbi, è un testo che pone delle domande. È nato da un romanzo che ha avuto un grande successo in Francia, di Schmidt, e da questo romanzo Schmidt ne ha tratti due spettacoli teatrali: una prima parte che si chiama Il Monte degli Ulivi, La Notte degli Ulivi, e la seconda parte, Il Vangelo secondo Pilato. Di questi due spettacoli, io, con permesso naturalmente di Schmidt, del quale ho interpretato anche variazioni enigmatiche 2 o 3 anni fa, ne ho fatto un solo spettacolo. Nella prima parte è Gesù sul Monte degli Ulivi, in attesa della legione che arriverà da Gerusalemme per trascinarlo poi al Golgota, rivive la sua vita da bambino sino al momento praticamente in cui lo verranno a prendere, e ancora dubitando di essere veramente il figlio di Dio. C'è una frase bellissima di Harold Bloom che dice: forse Gesù è stato un enigma anche per se stesso. Non si vuole porre in dubbio, in cattiva luce, il mistero della risurrezione di Gesù. È un testo, quello che per chi crede, per chi non crede, si è tutti d'accordo che Gesù, chi crede che sia figlio di Dio, chi crede che sia stato soltanto l'uomo figlio di un falegname di Nazareth, un uomo meraviglioso che però ha inventato un nuovo modo di amarsi tra gli uomini, ecco, ha lanciato, per chi crede, per chi non crede, una luce meravigliosa sull'intera storia dell'umanità. Nel suo percorso professionale, però, la figura del credente o del miscredente appare molto spesso, perché lei è stato un interprete del Faust di Goethe, sì, e quindi adesso interpreta praticamente Pilato. Pilato, tra l'altro, è interpretato invece da Roberto Sturno. Perché il cast, lo ricordiamo, è Glauco Mauro, Roberto Sturno e Marco Bianchi. Ecco, insomma, mi sembra che il suo percorso anche come attore prediliga questi temi spirituali. Ma io, più che i temi spirituali, io sono una persona laica, con tutto il rispetto logicamente per le religioni di tutti, di qualsiasi religione, ma io credo, cioè il mio interesse è rivolto all'uomo, alla fatica del vivere dell'uomo, e quindi inevitabilmente questa fatica del vivere contiene anche i problemi, gli interrogativi che l'uomo si pone nei confronti della religione, della fede. E questa volta ho voluto portare sulla scena un testo che certamente invita alla riflessione, invita a pensare, perché oltretutto il palcoscenico non deve essere soltanto una palestra dove non si robustiscono i muscoli, ma è una palestra dove si robustiscono i cervelli, certamente. Ecco, lei è il secondo anno che porta in scena questo spettacolo. Sì, e devo dire che la cosa che io ho creduto insieme a Roberto in questo spettacolo, nonostante che appena abbiamo detto che volevamo fare il Vangelo secondo Pilato, tutti hanno detto: ma che cosa strana in questo periodo, invece la cosa che mi ha commosso, devo dire la verità, è stato l'interesse da parte dei giovani per questo testo. Per questo, pensi che tra l'altro è accaduto un fatto molto, molto interessante, divertente. Quando ero a Roma l'anno scorso al Teatro Valle a rappresentare appunto questo testo, io sto per entrare in scena all'inizio e a un certo punto le luci spente, inizia la musica dello spettacolo e il teatro viene invaso da un gruppo numerosissimo di studenti universitari che appartenevano al movimento all'onda, che contestavano i tagli sulla scuola. E allora sì, naturalmente abbiamo interrotto lo spettacolo. Io ero d'accordo con la loro contestazione, però a un certo punto abbiamo detto: beh, adesso avete contestato, avete manifestato la vostra cosa, però qui è teatro, dobbiamo fare il nostro lavoro, c'è gente che è venuta a vedere teatro, se volete restare, restate in silenzio, se no adesso andate via. Sono restati tutti, ma la cosa bella non è che solo hanno seguito lo spettacolo con un grande silenzio, ma alla fine hanno invaso i camerini ringraziandoci per lo spettacolo, per l'interesse che aveva suscitato questo spettacolo. E alcuni di questi studenti universitari, purtroppo, non erano mai stati a teatro, una cosa piuttosto grave a mio avviso, ma la bellezza è che ci hanno detto: ma il teatro è una cosa bellissima. Quindi vede bene che è un testo questo che la cosa più importante è che non annoia, inquieta. Ecco, io credo che il teatro debba servire a questo, non si può lasciare delle verità dal teatro, ma perlomeno delle inquietudini, che la gente esca da teatro ridendo, avendo riso, avendo pianto, divertendosi umanamente ed uscendo più ricca di come è entrata. Insomma, come abbiamo sentito, non solo mi trascinò a me a teatro quando ero giovane, come ha detto il romanesco, quando ero pischella, sì, ma è il suo karma, il suo destino anche trascinare i giovani a teatro, che ricordiamo, il Vangelo secondo Pilato, in scena ancora questo weekend al Teatro Franco Parenti di Milano e poi a Rovereto e a Savona. Grazie Glauco Mauri. Grazie a voi. In bocca al lupo. Grazie, arrivederci. Una donna quasi sessantenne che in una notte ricorda tutti gli uomini della sua vita e dialoga virtualmente con loro. ne emerge un quadro un po' amaro delle relazioni d'amore. Un quadro di uno spettacolo, Ciao Maschio, messo in scena dal Teatro Stabile di Napoli negli spazi del Teatro Ridotto, in scena fino al 22 novembre. La nostra Alessandra Tedesco ha intervistato Valeria Parrella, che è l'autrice del testo pubblicato qualche giorno fa da Bompiani, la stessa autrice di Spazio Bianco, che è ora un film nei cinema. Ma sentiamo Valeria Parrella ai microfoni di Alessandra Tedesco. Com'è nata l'idea di fare un testo teatrale sugli uomini, sul rapporto fra uomini e donne? Insomma, perché un testo teatrale e non magari un racconto o un romanzo? Dunque, perché è giusta la domanda, perché ci sono dei pezzi che io ho nel cassetto, mettiamo così, che non riescono a trovare una fabula, cioè non riescono a essere incanalati in una storia che abbia un inizio e una fine. Siccome sono abbastanza rigorosa quando scrivo racconti e romanzi, cioè tendo molto a badare alla forma, perché se per me la lingua è tutto, no? Di storie ce ne sono tante, invece è la lingua che fa la storia, allora questi pezzi qui non riuscivano a finire in quello che io volevo diventasse una storia. E quando mi succede così, e però il cassetto diventa colmo, per cui a un certo punto scoppia, lo devi aprire per forza, io finisco a scrivere per il teatro, è già la terza volta che mi succede. Lei stessa, in una sorta di postfazione del libro, dice che quando scrive per il teatro usa un linguaggio così, più alto, insomma, a differenza dei racconti o dei romanzi. Perché? Mi diverto di più, cioè le spiego, allora in primo luogo secondo me c'è una cosa non controllata che deriva dai miei studi, perché ho studiato lettere classiche, quindi immagini, per me la tragedia era il genere più alto che ci potesse essere, la leggevamo in greco, il teatro per me era quello, e un po' anche perché mentre quando racconti una storia nello Spazio Bianco, per esempio, tutte le coprotagoniste sono donne napoletane, diciamo della working class, allora lì è necessario registrare una lingua possibile, una lingua vera, invece nel teatro questo non, è come se non mi riguardasse, perché tanto lì reciterà un'attrice, allora lì mi diverto a fare sfoggio, diciamo, no? Di tutte le parole alte con le quali poi si possono invece raccontare anche le cose banali. In Ciao Maschio questo è particolarmente vero, perché questa donna che affronta in una notte tutti gli uomini della sua vita, a volte affronta anche delle storie molto piccole, coniugali, quotidiane, quindi anche davanti al frigorifero lei sta lì che cita, che dà tono a tutto, ecco. Il modo in cui questa donna si rapporta appunto agli uomini della sua vita, li ricorda, ha un atteggiamento quasi di superiorità. Insomma, la protagonista li descrive spesso in modo mediocre, solo forse il padre è una figura maschile positiva. Perché? No, io penso che invece quello che di mediocrità c'è come valenza etica, diciamo, del libro è la relazione. Cioè non credo che gli uomini ne escano male, né che lei ne esca male. Si mettono tutti in discussione, anzi questi uomini le rispondono a tono e usando la sua stessa voce. Io non cambio mai registro, perché probabilmente sono proiezioni della sua mente. Quello che ne esce veramente male è la relazione, cioè sono state tutte relazioni in un modo o nell'altro, anche quando sembravano partire sotto i migliori auspici, poi sono finite e la relazione ha senso sulla durata, cioè se finisce non ha funzionato, c'è poco da fare. Infatti si ha spesso una visione quasi amara dei rapporti d'amore, leggo alcuni brani del suo testo teatrale, siamo invecchiati insieme, sono bastati 6 mesi, siamo invecchiati a vista d'occhio, oppure visti dopo, visti prima, gli amori hanno tutti un senso, è il presente che fa la differenza, è durante che sono sbagliati e stanchi. Insomma, le relazioni d'amore alla fine finiscono per essere quasi tutte negative? Quelle che finiscono sì, secondo me. Non lo so, guardi, io poi sono terribilmente chimerosa in fatto d'amore, cioè io ogni volta che mi fidanzo, io penso che per sempre, e ogni volta ci ricasco, cioè dico, lo so che la volta scorsa l'ho pensato e non è stato, quindi perché? Niente, proprio faccio tabula rasa, no? Come con i dolori del parto, uno li dimentica subito. In questi giorni è nelle sale il film Lo Spazio Bianco, tratto dal suo primo e unico al momento romanzo omonimo. Che effetto le ha fatto vedere la sua storia in un film? Guardi, io sono stata contenta, perché Francesca Comencini, cioè io quando Fandango mi ha detto che avevano venduto i diritti e che avrebbero affidato il compito a Francesca Comencini, io ho pensato che non ci poteva essere regista in Italia migliore di lei, perché è una donna di battaglia, è militante, intelligente e poi ha trovato una sua poetica. è chiaro che il film e il libro sono due cose diverse. Cioè, anche io quando lo vedo dico è come due fratelli eterozigoti, due gemelli eterozigoti, cioè hanno qualcosa in comune, però li riconosci, sai che sono parenti, però non sono la stessa persona. È proprio quella l'impressione che mi dà, ma io sono stata molto contenta. E la stessa multimedialità mi sta accadendo in questi giorni, perché poi Ciao Maschio è un libro di buon piano, ma è anche una pièce teatrale che sta in scena al Ridotto del Mercadante in questo momento. E quindi anche lì il regista, che è Raffaele Di Florio, ha dato una sua che è maschio, ha dato una sua interpretazione della storia che è diversa da quella che io metto sulla pagina, eppure ugualmente forte. Quindi è anche un bello spettacolo. Ricordiamo quindi Ciao Maschio, spettacolo messo in scena dal Teatro Stabile di Napoli negli spazi del Teatro Ridotto, in scena fino al 22 novembre. E adesso andiamo a Gorizia, dove fino a domenica si svolge la quarta festa della cultura Ex Border, letteratura, arte, cinema, scienze e altre danze delle idee. Quest'anno si chiama Tra Inganni, direzione artistica Alberto Princis. Buongiorno Alberto. Buongiorno, buongiorno a voi. Insomma, molte attese e anche un po' deluse per questa sera, perché Raul Montanari sta male. Sì, e quindi purtroppo fine, non potrà venire. Però insomma molta ciccia in programma per questo weekend, per questa festa. Intanto, com'è nata questa idea e perché quest'anno si chiama Tra Inganni? Guarda, ogni anno Ex Border inventa, o perlomeno la mia arte poetica prestata all'organizzazione di eventi inventa un tema, una suggestione, un'immagine intorno a cui tutte queste discipline, letteratura, scienze umane, scienze fisiche, cinema, arte eccetera, vanno a danzare. Quindi quest'anno Tra Inganni ci sembrava che sia dal punto di vista individuale e collettivo potesse essere un tema intrigante. Oggi abbiamo un grandissimo poeta di origine ungherese, Tommaso Kemeny, che parlerà di tra inganno, illusione, confini incerti, eccetera, dalle 17 in poi all'auditorium, e poi grande incontro con Paolo Crepè, Inganni sfamiliari, a margine del suo ultimo libro uscito dai Naudi, Sfamiglia, quindi qualcosa che riguarda questa problematica di una famiglia, c'è o non c'è, i ragazzi dove stanno, come non stanno, però in effetti i ragazzi, al di là di quelle superficialità che sono le tecnologie, l'iPod, tutte queste trappole, il Facebook eccetera, hanno bisogno anche di legami forti, di passioni, di affetti. Quindi Tra Inganni perché ritenete che questa società un po' inganni, tra le altre cose. Certo, sia sempre costruita sull'inganno, perché il momento in cui la felicità viene scambiata con la merce, in realtà non è più un bene, è una merce che serve sempre a qualcun altro. Siamo collocati in una città che per decenni è stata emarginata e decentrata rispetto all'Occidente, impoverita dalle storie, e poi si ritrova da qualche anno al centro di una nuova Europa allargata. Per cui cosa estraiamo? Ex border significa non solo c'era una volta una frontiera, ma cosa possiamo estrarre da questo vecchio confine? Allora io ho cercato di immaginare un'operazione culturale di vederla come una sponda. Non è un motore economico forte, gli abitanti non sono tanti, però ha tradizioni forti, una vocazione storica fin dall'antica contea, e quindi possiamo forse essere una sponda da cui guardare questo mondo che fugge, corre e qualche volta travolge e ci ammala. Allora, noi ricordiamo Ex Border, quarta festa della cultura, ancora questo weekend importantissima a Gorizia. Per informazioni www.exborder.it. La festa quest'anno si chiama Tra Inganni. Grazie Alberto Princis. Grazie a voi. Your hand on your gun. Don't you trust anyone? There's just one kind of man that you can trust. That's a dead man, or a gringo like me. Be the first one to find. Every man is a lie. Questa musica che sentite è quella della Spaghetti Western Orchestra, un misto di musica western e di spaghetti western, che ricordiamo è stato un genere molto in voga e soprattutto girato in Italia. E ieri c'è stata una serata un po' speciale al Teatro Ciak di Milano, perché la Spaghetti Western Orchestra ha suonato niente poco di meno con Andrea Giuffredi, la tromba, speciale interprete della musica di Ennio Morricone, che molti film spaghetti western di Sergio Leone accompagnò. Buongiorno Andrea Giuffredi. Buongiorno a tutti, scusate, mi devo ancora un po' riprendere dal concerto di ieri sera, soprattutto dal dopo concerto al ristorante, insomma. Sì, ha detto bene, però ci tengo a dire che in realtà io sono un interprete di Ennio Morricone, ma non sono l'unico, perché il maestro Morricone ha diversi, insomma, musicisti che collaborano con lui, però diciamo che ho lavorato con lui in occasione del tournée con la Filarmonica della Scala, in qualità di prima tromba solista, e poi con la Filarmonica Toscanini, e soprattutto all'estero mi identifico molto nella sua musica, voglio dire che la porto in giro anche. Sono stato in Russia, accompagnato un'orchestra sinfonica locale, quindi diciamo che porto in giro la sua musica un po' in giro all'estero, ecco. E gli Spaghetti Western Orchestra invece sono tutti quanti americani, insomma tutti quanti stranieri comunque, nessuno è italiano. Sono tutti stranieri, ma sono australiani loro. Sono, addirittura? Sì, sono australiani, è un po' strano perché è un po' strano che loro portano in giro la musica di Morricone, no? Dovrebbe essere, diciamo così, roba nostra, no? Però comunque fa piacere, perché vedere che comunque la nostra cultura italiana è sempre molto apprezzata all'estero, questo fa molto piacere. Loro sono australiani, lo spettacolo, cioè non è un concerto, ma è proprio uno spettacolo teatrale molto bello, con dei ritmi molto veloci, e insomma la gente ha apprezzato molto. È stato in scena 10 giorni, una decina di giorni, al Ciak di Milano. Sì. Quindi lei si è divertita a suonare con loro, perché poi lei invece Ennio Morricone lo conosce personalmente, quindi è un po' diverso da questo gruppo australiano che, vedendo il buono, il brutto, il cattivo, c'era una volta il West, per un pugno di dollari hanno deciso poi di mettere su una band sulle musiche di Ennio Morricone. Beh sì, loro certo che è una cosa diversa. Quando faccio i concerti con l'orchestra che dirige il maestro Morricone, insomma è proprio l'esecuzione della musica sua, fatta diciamo come si deve, tra virgolette, cioè è lui che dirige, quindi sa quello che vuole, giustamente, no? Invece lo spettacolo di ieri sera è stato più improntato sull'ironia, ma però questo non toglie che quando i momenti musicali sono arrivati erano di peso, insomma, sono anche ottimi musicisti, quindi io, da italiano, diciamo esperto tra virgolette della musica di Morricone, posso dire che sono bravissimi. Qual è la sua canzone preferita dei film di Sergio Leone, poi musicati da Ennio Morricone? Qual è la sua melodia? Se vuole, io posso accennare un pezzettino in diretta con la tromba. Facciamo una prova. Facciamo. Conti. Però mica male, eh? Adesso dal telefonino non so come si è sentito, ha dato l'idea. Allora, questa era la tromba di Andrea Giuffredi, speciale interprete della musica di Ennio Morricone, che ieri è stato ospite degli Spaghetti Western Orchestra, una serata speciale al Teatro Ciak. Ricordiamo che fino all'8 novembre gli Spaghetti Western Orchestra saranno al Teatro Ciak, poi a Firenze il 10 novembre, a Bologna il 12 e il 13 novembre. Ma allora a questo punto, Andrea Giuffredi, io le chiedo, quando potremo venire a sentire la sua tromba? Ma allora io adesso partirò per la Germania e poi in Giappone. Per il momento in Italia non ci sono, però chi mi vuol conoscere può andare direttamente al mio sito, ci sono tutte le informazioni, www.andreagiuffredi.com. Allora, e in bocca al lupo per la sua tournée. Vi ringrazio, a presto. Un pizzico di spaghetti e di western all'italiano all'estero, grazie. Vai, grazie, arrivederci, ciao a tutti. Dieci anni di magia che non son passati invano, quante storie puoi contarle con la mano? 10 anni di avventure, di racconti e di consigli, qualche volta di bellissimi sbadigli. 10 anni al nostro regno, dove ormai tu vai e torni, forse lasciano un buon segno nei tuoi giorni. Mele, mele visione, tele, tele chiediamo. E dalla televisione Melevisione sbarca a teatro con un bellissimo tour, Il mistero delle fiabe rubate. Potremo ritrovare a teatro i nostri amici Lupo Lucio, Milo Cotogno, Strega Varana, insomma tutti quanti i beniamini dei più piccolini. Quindi parliamo di teatro per i bambini, che questo pomeriggio sarà a Roma al Teatro Brancaccio alle 15.30 e poi andrà a Lecce il 14, a Bari il 15 e a Milano il 26 e il 29. Noi salutiamo Paolo Severini, che è il regista di Melevisione. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Insomma, noi eravamo abituati a vedere questo bellissimo bosco incantato in televisione e sono cresciute generazioni di bambini oramai con Melevisione. Com'è lo spettacolo a teatro? Lo spettacolo a teatro sarà ancora più bello, ovviamente, mi verrebbe da dire, ma semplicemente perché abbiamo l'opportunità di vivere uno spettacolo che comunque, rispetto a quello che sono le puntate che vanno in onda quotidianamente, vive nella libertà del linguaggio teatrale e quindi con tutta la bellezza del poter cantare dal vivo, del poter ballare, giocare molto con tutti i caratteri dei personaggi. Purtroppo abbiamo solo 5 personaggi, a noi avremmo tanto amato portarli un po' tutti, anche perché abbiamo un cast di 13 attori. Solo che per mille motivi non abbiamo potuto, come dire, creare questo baraccone mobile, però già con 5 personaggi devo dire che quello che riusciamo ad allestire è una storia, insomma, abbastanza intensa, siamo molto contenti. Ma il Fantabosco praticamente è sul palcoscenico? Non proprio, nel senso che noi abbiamo allestito un luogo che in pratica è un luogo a metà quasi fra il Fantabosco e la città reale, ed è comunque un luogo pretestuoso per far accadere ovviamente una serie di situazioni dove tutti i personaggi si rincorrono per cercare poi di tornare al Fantabosco riportando a casa una serie di oggetti magici. Non sto a raccontare tutta la trama, altrimenti poi non vorrei togliere un po' il gusto agli spettatori che verranno, però diciamo che non è proprio il Fantabosco quello televisivo, è un luogo che gli rassomiglia un po', no, però ha sempre un sacco di suggestione. E protagonista principale è sempre Lupo Lucio? Abbiamo 5 protagonisti, perché Lupo Lucio, vabbè, è un po' il personaggio quello che ai bimbi fa ridere di più, giustamente, anche perché è il personaggio un po' più singolare, però abbiamo una fata che si esibirà in alcune cose che i bimbi non hanno mai visto, perché si appenderà sui teli a un numero sul cerchio, quasi una cosa un po' più circense. Poi c'è Milo Cotogno, che è anche lui un po' l'eroe dei bimbi, che cerca sempre di risolvere le situazioni. E poi abbiamo la strega Varana, che sul palco devo dire che fa un bellissimo effetto, perché è un po' più strega, con un impatto un po' più forte rispetto a quella che è la strega che siamo abituati a vedere in televisione. E poi c'è anche Vermio, questo cattivo un po' buffo che comunque è un pezzo importante di tutto quello che è il nostro racconto. Ricordiamo allora, oggi pomeriggio alle 15.30 a Roma al Teatro Brancaccio abbiamo Il mistero delle fiabe rubate, La Melevisione a teatro. Poi lo spettacolo andrà a Lecce il 14, a Bari il 15 e a Milano il 27 e il 29. Grazie a Paolo Severini e in bocca al lupo. Grazie a tutti voi. Anzi, in bocca al Lupo Lucio. E nel nostro caso dire in bocca al lupo è un po' scomodo. 127 gallerie provenienti da tutto il mondo, di cui oltre il 50% straniere, 3.000 opere esposte, centinaia di collezionisti, ma soprattutto 2 nuove proposte. E stiamo parlando dell'edizione numero 16 di Artissima, la grande fiera di arte contemporanea che si tiene a Torino questo weekend ed è firmata ormai da 3 anni da Andrea Bellini e vanta quindi questi grandissimi numeri. Anzitutto il progetto che vede 15 artisti fare performance nei più grandi teatri della città e lo store, una sorta di negozio dentro il mitico Lingotto, dove si possono comprare oggetti d'arte fino a 450 euro. Sentiamo Andrea Bellini al microfono di Adriana Fracchia. Quest'anno in generale con Artissima 16 si compie un po' il mio progetto, no? La mia idea di fiera. Io ho cominciato a dirigere Artissima nel 2007 e ho pensato da subito che una fiera importante ormai non debba essere semplicemente un mercato dell'arte, un luogo nel quale si vendono semplicemente delle opere, ma debba essere un discorso attorno all'arte, per cui debba poter, come dire, presentare, mettere in piedi tutta una serie di iniziative volte a far comprendere il mondo dell'arte al grande pubblico, per cui in questo senso Artissima ha veramente un ruolo di avvicinamento del grande pubblico nei confronti dei linguaggi artistici contemporanei, per cui quest'anno intanto la fiera è cresciuta dal punto di vista della qualità, perché abbiamo una serie di gallerie straordinarie, per cui veramente che non erano mai venute prima a Torino, per cui la qualità è molto alta e questo è importante perché ad altissimi livelli il mercato è cultura già di per sé. E poi abbiamo in fiera diverse novità, abbiamo The Store che è appunto una sorta di negozio, mostra, con delle opere diciamo fatte in serie da alcuni artisti importantissimi, per cui sono multipli, però sono multipli fatti appunto da artisti molto interessanti che costano molto poco, possono essere acquisiti per 5 euro, 10 euro, insomma abbiamo prezzi diversi, addirittura abbiamo dei manifesti di Claire Fontaine, questo duo di artisti parigino molto molto famoso, adesso sta facendo mostra in tutto il mondo e loro hanno fatto appunto due file di manifesti molto belli che regaleremo, per cui come dire si può portare a casa un piccolo lavoro d'arte perfino gratis. Questa era in realtà è una mostra curatoriale, perché l'idea è che il pubblico portando via gli oggetti trasforma la mostra che viene costantemente come dire rimessa in scena, però è anche un po' così un modo per far scattare, no, un meccanismo mentale che è il meccanismo mentale del collezionismo, insomma. Questa è una fiera di ricerca, cioè quello che noi abbiamo voluto fare è selezionare un gruppo straordinario delle gallerie che fanno ricerca contemporanea, per cui vanno a individuare i giovani talenti. Questa non è una fiera blockbuster, il grande supermercato dell'arte dove si arriva e si comprano opere per milioni di euro, non è la fiera degli speculatori dell'arte, no? Che comprano un lavoro e lo rivendono all'asta dopo sei mesi cercando di guadagnarci un po' di soldi, no, questa è la fiera dedicata ai veri appassionati, ai veri collezionisti d'arte, che sono delle personalità che amano il contemporaneo, amano i linguaggi artistici contemporanei e investono i propri denari comprando opere di artisti giovani, promettenti e quindi in qualche modo finanziano e aiutano la ricerca contemporanea, per cui è veramente Artissima uno spaccato sul mondo, sulla ricerca contemporanea. Artissima, devo dire, però non è dedicata solamente ai collezionisti, nel senso che noi abbiamo un pubblico amplissimo, abbiamo studenti, artisti, curatori che vengono qui e vedono, cercano di capire che cosa sta accadendo oggi nel mondo dell'arte contemporanea, per cui ormai le fiere d'arte sono dei fenomeni molto molto complessi che valicano il problema del economico, del collezionismo, eccetera. Ecco, lei dice Artissima oggi è più vivace di Frise, più dinamica di Art Basel, davvero così? Sì, ho parlato con dei galleristi importanti internazionali che sono venuti quest'anno in fiera e mi stanno dicendo esattamente questo, che la qualità media non è una mia affermazione, cioè riportavo opinioni, nelle opinioni sono queste, cioè che la qualità media delle gallerie di Artissima quest'anno è molto alta, si parla appunto di una delle fiere più belle d'Europa e certamente grazie al progetto del teatro e grazie a tutte le diverse attività che organizziamo, dimostriamo una vivacità straordinaria anche rispetto, insomma, a queste fiere molto importanti, per cui insomma voglio dire, questa fiera è un po' il fiore all'occhiello del sistema dell'arte italiana, si distingue sempre di più per essere un mercato di altissimo livello e anche un discorso attorno all'arte di altissimo livello, è una fiera che mostra a Torino il mondo e mostra Torino però anche al mondo, questa è una cosa interessante, per cui come dire, è un rapporto, è una finestra sul mondo, ma è anche un modo per mostrare questa città al nostro pubblico internazionale, insomma questo è un po' il ruolo della fiera, di questa fiera pubblica, insomma, perché poi è una fiera pubblica Artissima, ricordiamolo, non è una fiera privata, per cui appartiene alla Fondazione Torino Musei e agli enti, per cui credo che il suo ruolo sia quello, insomma, di avere di svolgere in qualche modo una funzione pubblica, di utilità pubblica. Ecco, ma in qualche modo la crisi si fa sentire anche su Artissima? Ma certamente, diciamo, la crisi c'è. Cioè per tutti, per cui il potere di acquisto dei collezionisti senz'altro è sceso, cioè questo non dobbiamo dimenticarlo. Certamente come abbiamo voluto rispondere noi alla crisi? Con un grande slancio di vitalismo, veramente, perché abbiamo rilanciato quest'anno creando più eventi e cercando di alzare il livello di qualità della fiera, e quindi abbiamo cercato di reagire alla crisi e al diminuito potere d'acquisto dei singoli collezionisti, cercando di portare molti altri collezionisti che a Torino non erano mai venuti, e in questo senso il progetto del teatro a questa fa sistema anche con la fiera, cioè un modo, è uno strumento che noi utilizziamo per, come dire, sviluppare, generare interesse e far arrivare più pubblico a Torino. E vediamo adesso cosa succede durante questo weekend in Italia. Venti di libertà, 1989-2009, Roma celebra la caduta del muro di Berlino, 30 performance di spettacolo, 38 mostre e 4 convegni sparsi in tutta la città per una manifestazione promossa dal Comune di Roma. Ancora a Roma, ultimo weekend di Fiore di Cactus al Teatro Ghione con Eleonora Giorgio e Franco Castellano nel grande classico della letteratura americana. Invece il primo weekend del maiale fino all'8 novembre, Sua Maestà il Maiale verrà servito in tutte le salse, in tutte le maniere, ricordiamo a Valceno in provincia di Parma. Andiamo a Sulmona, dove fino al 10 novembre c'è il 27esimo Sulmona Cinema Film Festival. Occasione da non perdere, molti lungometraggi da vedere e un modo per riscoprire questa località dell'Abruzzo. Passiamo a Bologna, Bologna Jazz Festival. Molti gli appuntamenti di questo sabato 7 e domenica 8 novembre al Teatro delle Celebrazioni, main stage del Dave Douglas Quintet, ma non solo, c'è anche un jazz brunch domenica alla Cantina Bentivoglio o un aperitivo jazz. Insomma, tanti appuntamenti per gli amanti di questo genere di musica. E poi da sabato 7 novembre, quindi da oggi, al Castello di Masnago di Varese fino al 10 gennaio, Caravaggio, l'enigma dei due San Francesco. Beh, una mostra che deve scoprire le tecniche di attribuzione dell'autenticità dei dipinti, insomma, un'occasione anche per scoprire questo genio della nostra pittura. Ricordo che ci potete scrivere a cartellone@radio24.it. Ringrazio Valerio Rocchetti in regia e Gloria Guerrera in redazione. Io vi auguro una buona giornata a tutti.